Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800240024, microfoni aperti in questo momento e per due ore fino alle 16 per dirci che cosa ne pensate su tanti temi di cui parleremo oggi. Franco Piantanini, autore di questa puntata, Roby Scaltritti in regia. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo, sotto shock per l'esonero di Moyes, come credo mezza Manchester, che secondo me aveva dimenticato anche come si scriveva la lettera di licenziamento. To be sacked. Ma insomma sì, però dico pure che d'accordo. Allora, noi siamo cresciuti con la letteratura fergusoniana, no? Del Manchester United che aspetta per tre anni l'allenatore fino al primo trionfo e poi vince tutto quello che si può vincere più volte ripetutamente con grande godimento. Sì, dimenticando che era accaduto 27 anni fa, cioè appunto, un'era geologica fa. Appunto. Poi diciamo che Ferguson le sue riconferme se le erano guadagnate sul campo, nel senso che sono state nettamente di più le stagioni in cui il Manchester ha vinto qualcosa di importante rispetto a quelle in cui non è successo, e quindi tutto il mondo è paese. Poi insomma, diciamo la verità, non è che ci fossero, io credo, al di là dei risultati che sono drammatici di questa stagione dello United, non è che ci fossero dei segnali particolarmente profondi, approfonditi di crescita, di miglioramento, di feeling che comunque stava sbocciando con i giocatori, per cui io credo che sia pure questo, insomma, la prospettiva non c'era. Sì, scelta non c'era, assolutamente inevitabile, del resto si sapeva già da ieri sera. Questa mattina 9:30 su Twitter l'annuncio ufficiale del Manchester United: David Moyes lascia il club con i soliti ringraziamenti per l'impegno profuso in questi 10 mesi, perché tanto è durato il regno di Moyes al Manchester United. Finalmente, carissimo Pierre, questa sera torna la Champions League, finalmente, dico, visto che il nostro campionato, hai sentito cosa ha detto il presidente del CONI, Giovanni Malagò? Campionato noioso, bisognerà far qualcosa, da troppi mesi era tutto chiaro. Io ti dico la mia, ma sai come la penso, anche queste parole le ho trovate un po', non lo so, poteva anche risparmiarsele, però questa sera finalmente torna la Champions. Sì, io devo dire la verità che leggendo anche i giornali di oggi, al netto delle speculazioni giornalistiche che sicuramente ci sono, però insomma, dopo Pasquetta, insomma, bisogna vendere i giornali, però la verità è che siamo diventati un po' delle provinciali in Europa, cioè succedono quelle cose che normalmente succedono quando i grandi club vogliono approvvigionarsi di giocatori e allenatori di grande qualità dai club medi. Non dico piccoli, ma dico medi. E questo è quello che succede in Italia. Cioè le cose che leggiamo su Pogba, su Garcia, su tutto quello che è di buono, su Icardi, su tutto quello che è di buono... Sì, siamo diventati una stazione di passaggio. Capito, questa è la verità. Vengono qui, si affermano, poi magari vanno in campionati più ricchi, anche se io non credo, ad esempio, che oggi la Gazzetta lo scrive Conte quarto, c'è da capire se sia sicuro o no, perché in realtà poi, tra l'altro, si libera la panchina del Manchester United, che significa a cascata che ci sarà un gran movimento di panchine, anche in Europa. No, ma succede quest'estate. Giro, perché c'è lo United, ma potrebbe sicuramente esserci il City, c'è sicuramente il Barcellona, c'è molto probabilmente il Paris Saint Germain, il Monaco, e questo può creare dei movimenti a cascata che sono abbastanza clamorosi, ed è difficile poi per la Roma o per la Juve, di fronte alle offerte del Barcellona o del Manchester United, andare da Garcia o da Conte a dirgli rimani qui. Lo puoi fare, sicuramente Roma e Juve hanno due progetti molto importanti, molto forti, si stanno attrezzando e ci sono mille buoni motivi per rimanere, però insomma qua è Cameron Diaz che invita a cena, capito? Sì, hanno anche altro appeal i campionati che chiamano eventualmente sia Conte che Garcia. Avviso gli amici a casa, 800240024, che dopo le 15 arriva qui la nostra Bibbia sui conti al secolo Marco Belinazzo del Corriere, del Sole 24 Ore, viene qui di persona per spiegarci quello che scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Molti tifosi juventini se la sono presa, ma come? Abbiamo i conti a posto, abbiamo lo stadio di proprietà e adesso sembra che dobbiamo vendere Pogba altrimenti la Juventus fallisce. Non è così, ma cercheremo di spiegarvi che cosa succede. Tra le panchine che non cambiano, carissimo Pier, c'è quella dell'Inter. Pochi minuti fa Toir: per avere una società solida c'è bisogno di un processo, spesso nel calcio le cose cambiano con troppa fretta, io non lo voglio. Mazzarri avrà a disposizione il prossimo anno per costruire la squadra, ha detto Toir. Quindi riconferma sicura, mi pare di capire tra le righe che però l'amore non è sbocciato. No, l'amore non è sbocciato, ma una riconferma è comunque una riconferma. Una riconferma con dei risultati discreti ma non eccezionali, perché tali sono i risultati dell'Inter in questo momento, di questi tempi, non mi sembra male. A me questo Toir sta piacendo, io ti dico la verità, mi sembra sinceramente che insomma, al netto delle così delle battute, del chi non salta milanista alla quelle robe lì, insomma del folklore che c'è stato all'inizio e nella sua distanza, che è un fattore oggettivo ovviamente rispetto a diventare invece sempre presente qui, però insomma, mi sembra che stia facendo delle cose. Sì, è partito lento ma sta accelerando. Secondo me ha fatto scuola con quella vicenda di Guarin, che l'ha costretto a mettere testa, mani e piedi nel club, forse più di quanto pensasse. Lui è diventato presidente dell'Inter quel giorno lì, dal punto di vista diciamo tecnico lo era diventato prima, ma lui è diventato presidente dell'Inter nel senso del dirigente, con il senso di urgenza che deve intervenire per risolvere, per fare quel giorno lì, quando si è reso conto che sarebbe venuto poi in Italia a beccare i fumogeni e non capiva bene perché, e ha deciso di intervenire. L'ha fatto secondo me in maniera comunque molto forte, al di là della figuraccia che probabilmente c'è stata, insomma io sono abbastanza convinto che lì l'Inter, come dice la Juve, avesse dato l'ok, che ci fossero stati i messaggi, il gentleman agreement. Sì, e poi tanto ti annuncio che settimana prossima dovrebbe esserci la stretta di mano fra Toir e Agnelli a sancire la pace dopo la guerriglia di gennaio su Guarin. Pier, stai lì, poi ti faccio sentire anche le voci di altri due allenatori che non dovrebbero muoversi dalle loro panchine, però traffico. Com'è il rapporto con Mazzarri? Pensa ad un progetto a lungo termine con lui? This is what we discuss with the coach. Coach, I really trust you, but at the same time, let's finish this season, and then we're planning the next 3 seasons. Tutti convocati. 800 24 00 24, vi ricordo anche oggi, così come tutti i giorni, poi alla fine della puntata scegliamo il migliore in campo, il migliore intervento in diretta in tutti i convocati, vince una maglietta speciale di tutti i convocati autografata. E poi il tema di questa settimana invece per convocato per un giorno, quindi quella clip audio che dovete mandare di un minuto con quello che ne pensate sul tema del giorno. Il tema della settimana, dicevo, è la Juventus che domina in Italia, ma cosa le serve per vincere in Europa? Cosa manca per vincere in Europa? Ammesso che manchi qualcosa, perché ci avviciniamo anche alla semifinale con il Benfica giovedì. Pierluigi, ti faccio sentire due allenatori che sicuramente non hanno problemi in questo momento né a restare sulle loro panchine né a trovarne di nuove: Simeone e Mourinho. Non siamo uguali, però situaciones similares, una de la defensa menos goleada, la del Chelsea en la liga inglesa, nosotros lo mismo en la liga española, muy buen trabajo defensivo, un juego bastante directo. It's not fair to compare a coach with 15 years of career with a coach with less than that. Insomma, l'hai sentito, Simeone che dice non siamo uguali e Mourinho che dice è poco corretto paragonare me a Simeone, un allenatore che ha 15 anni di esperienza, a un allenatore che è nato ieri. L'aveva già fatto con Allegri, se non ricordo male, no? Aveva rifiutato il paragone. Sono mind games, sono schermaglie. Giochi, sì, sono schermaglie, sono giochi anche psicologici, insomma. Mourinho ha voluto ricordare a tutti, al avversario, a se stesso e a tutto il mondo che quello figo dei due è lui in prova contraria, dove chiaramente però il rischio è che se dovesse passare il turno Simeone sarebbe più figo del figo, quindi insomma credo sinceramente che sia tutto in pieno stile Mourinho e va bene, non c'è niente di male, insomma Sai cosa mi ha colpito in questi due giorni? Ho visto due foto sulla Gazzetta dello Sport. La prima, l'altro ieri, di Mourinho con Rodgers, l'attuale tecnico del Liverpool, quando Rodgers era andato alla Pinetina a fare scuola da Mourinho, anno 2009. Oggi viene pubblicata la stessa foto con Simeone, che stava appena iniziando la sua carriera, anche lui nel 2009, a lezione da Mourinho alla Pinetina. Come passa il tempo? Ha solo 51 anni Mourinho. Ho l'impressione che in questa veste di grande vecchio non ci si trovi benissimo. No, perché la giovinezza è una dimensione dell'anima molto molto, insomma, è diciamo che oltre che difficile invecchiare senza diventare, come canta il poeta, credo che insomma comunque in generale sono degli elementi della giovinezza che sono particolarmente affascinanti, ed è poco, c'è poco da scherzarci sopra. Quindi insomma, Mourinho voglia conservare intatto il suo fascino, credo che non ci sia niente di male in questo, e poi credo che sia una partita di pallone essenzialmente fra due allenatori sicuramente molto bravi, fra due squadre, come diceva giustamente Simeone, abbastanza simili, nel senso che giocano un calcio piuttosto diretto. Quel discorso lì diretto è, tanto per capirci, vuol dire non siamo il Barcellona, siamo squadre che giocano a pallone in maniera abbastanza verticale, senza un clamoroso possesso palla, ma con una sana e significativa quantità di accelerazioni e di strappi che portano poi al gol o comunque alla pericolosità. E quindi poi alla fine insomma sarà una partita di calcio, fortunatamente. Che Simeone abbia delle caratteristiche murignane, secondo me è vero, nel senso che è un combattente, un guerriero, un indio, è un grande e soprattutto leader, motivatore. Per la folla, no? credo anche che proprio perché motivatore stia tenendo in piedi l'Atletico Madrid, che io lo dico, mi sembra una squadra abbastanza alle corde dal punto di vista fisico in questo finale di stagione, eppure tiene, vince, fa fatica anche contro avversari più scarsi nella Liga, però ha lì ad un passo un traguardo storico, e credo proprio sui nervi Simeone la stia tenendo su. Di altre. Mi sembra semmai sicuramente più scarsa di altre, più debole, non ci sono grandi dubbi. È ovvio che la quantità di talento che ha il Real Madrid o che ha il Barcellona o che ha lo stesso Chelsea, l'Atletico Madrid di sicuro non ce l'ha. È anche la sfida di Torres col suo passato. Ti faccio sentire un pezzo d'archivio, l'ha pescato in realtà un tuo collega di Sport Mediaset, Marco Foroni, ed è un video di qualche anno fa. Questi sono i tifosi dell'Atletico Madrid che salutavano Simeone che abbandonava il calcio. Sai chi c'era tra quelli che cantavano 11 Simeone? Il Niño Torres, che allora era un ragazzino. Altra sfida di grandi emozioni, ho letto sui siti spagnoli, Torres che però verrà accolto benissimo questa sera al Calderon, perché hanno detto questa è casa sua, anche se 7 anni fa se n'è andato. Beh, sarebbero pazzi se non lo accogliessero bene, perché Torres è veramente colcionero come nessun altro, probabilmente. È colcionero nell'anima, nel profondo. È uno che non ha mai considerato, ad esempio, l'ipotesi del Real Madrid, tanto per fare un discorso molto semplice, proprio perché e ci poteva andare. Insomma, c'è stato un momento della sua carriera che Torres poteva fare veramente quello che voleva. Quindi assolutamente, se ci sarà l'accoglienza positiva che mi aspetto, sarà una bella dimostrazione, ma abbastanza sana. Cioè, voglio, d'accordo, siamo abituati alle peggio porcate, però insomma una roba del genere secondo me rientra nella normalità. Quindi, sì, anche Mourinho si era segnato, anche Mourinho si era segnato, ha detto ieri in fondo Torres è un grande tifoso dell'Atletico Madrid, ma non se l'è presa. 800 24 00 24, Giuliano da Modena. Giuliano. Sì, buongiorno, buongiorno, grazie per l'intervento. Prego. Io sono salito in macchina, forse mi sono perso qualcosa, correggetemi voi se sbaglio, circa le dichiarazioni del presidente del CONI Malagò, se è così, se non ho capito male, perché era già partita la vostra trasmissione, dove dice che il campionato italiano è praticamente non monotono, ma che terminologia usata non ricordo. Sì, non divertente, ha detto non è stato un campionato divertente, posizioni chiare da troppi mesi. Va bene, allora stati dovuti i complimenti a Juventus e Roma. Ecco, io faccio solo questo piccolo punto, non mi sembra che il campionato tedesco le posizioni chiare non siano forse ancora da più mesi, perché il Bayern Monaco un vantaggio abissale. Sì, diciamo dall'anno scorso di questi tempi, quando è stato chiaro che Guardiola avrebbe allenato il Bayern Monaco con quel mercato che sarebbe arrivato. Prego Giuliano, poi sentiamo Pierre. Dicevo, Bayern Monaco è di un altro pianeta avanti. Le stesse spagnole se la giocano praticamente in tre da un pochino. Non è che, voglio dire, non c'è tutta questa differenza tra il campionato italiano e i campionati stranieri, perché anche il Paris Saint-Germain in Francia. Sì, sono, da questo punto di vista sono scarsamente allenanti come il nostro, Pierre. Io credo che esageriamo, secondo me, anche noi a trattare male il nostro campionato. Noi tifosi italiani. Discorso, ha ragione l'ascoltatore sul discorso dell'equilibrio, perché ci sono stati campionati molto più spunti, non è l'equilibrio. L'equilibrio Pierre, aspetta perché non si sente nulla. Modù dalla provincia di Brescia, intanto recuperiamo il collegamento con Pierluigi. Modù, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Grazie della convocazione. Dica. Io volevo parlare della noiosità del campionato. Sì. Sì, ci sono troppe squadre, sono 20 squadre, poi se ci facciamo 18 squadre come le altre nazioni, come la Germania, si avrebbe anche il tempo di far riposare e poi anche far giocare la nazionale, tutte quelle cose lì. Sì, però in Inghilterra giocano come noi, anzi giocano di più, e se andiamo a leggere le classifiche il campionato inglese in questo momento è certamente il più divertente di tutti. Io non lo legherei tanto al numero di squadre, Pierre, il fatto o no che il nostro sia un campionato più o meno divertente. Poi possiamo anche ridurle di 2, di 4, non è un problema, è un problema dei club che dovranno ridurre anche parte degli introiti delle televisioni. Pierre. Ah sì, scusa, io ero qui fermo, tra l'altro sempre seduto. Quindi, ma eri caduto. Misteri della telefonia. Eri seduto ma caduto. No, sul discorso dell'equilibrio, certo, un campionato equilibrato è un campionato monotono, però ce ne sono, ha ragione l'ascoltatore, anche di più monotoni del nostro. Il campionato tedesco quest'anno è stato di una noia abissale e il prossimo si preannuncia simile, quindi io credo che insomma su quello c'è poco da discutere. Il problema è un discorso di qualità complessiva del nostro calcio. Il problema è che in Italia solo una squadra in questo momento ha lo stadio di proprietà, l'Udine lo sta costruendo, la Roma l'ha progettato, ma insomma siamo tutti molto indietro. Il problema è che lo facciamo, poi dalle tre in poi ci scateniamo a parlarne, ma insomma il problema è che non stiamo crescendo a livello di fatturati, a livello di merchandising, di valore dei club, e quindi perdiamo posizioni in giro per l'Europa. Questo è il problema. Il problema è che Pogba è in pericolo, perché chiaramente se arriva un club oggi che può offrire 70 milioni, Pogba può partire, come Rudiger può partire, come Conte può partire. Cioè gli oggetti pregiati del nostro calcio di fronte al Barcellona, al Saint Germain o al Manchester City che chiama, facciamo fatica a tenerli. Quindi il problema è questo. Non è il problema l'equilibrio. Poi chiaramente siamo tutti, gli osservatori neutrali sono tutti più felici se il campionato finisce e si decide all'ultimo minuto dell'ultima giornata. I tifosi diretti interessati, magari qualcuno sì e qualcuno no, quello che vince sì, quello che perde no. Sì, qualcuno scrive da casa: è vero, il campionato è noioso perché non si può dire. No, si può dire che quest'anno insomma è parso deciso in fretta, però secondo me non è né più noioso né meno noioso di tanti altri a livello di emozioni, anzi spesso anche negli ultimi anni è stato più divertente ad esempio del campionato spagnolo, seppure il campionato spagnolo sia di livello superiore. Convocati 800 24 00 24. Poi c'è chi scrive: il problema del nostro campionato non è che non è allenante, ma che è tecnicamente svuotato. Paolo da Prato l'ha scritto al 349 238 6666. Vi siete accorti che l'Italia è sparita da ogni competizione sportiva? Non ci sono più atleti a livello mondiale ma solo tifosi, eccetera eccetera eccetera. Albino, alla Juve manca la fortuna per l'Europa. Andy da Trento. Poi c'è chi dice: alle squadre italiane mancano ritmo, intensità, preparazione atletica. Se il Milan esonera Seedorf dopo i risultati e la sua serietà, cambio squadra. Gianni da Verona. Invece è il Manchester che dopo 348 giorni di Moyes l'ha licenziato da manager. Pierre, abbiamo Nicola Roggero di Sky. Ciao Nicola. Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Uno dei massimi esperti di calcio inglese, vi faccio sentire un genio, tifoso del Manchester City. Questa mattina, pochi minuti dopo le 9.30, cioè orario dell'annuncio del licenziamento di Moyes, su YouTube. David Moyes lost to Everton, you know, everyone's like, oh, sacking, so, you know, to see him going, you know. I thought it was the worst manager in the... Peter Mock, è così difficile vederlo andare via, il peggior allenatore della storia della Premier League, Nicolò. C'è Nicola, c'è mezza Manchester che piange e mezza Manchester che ride, mi pare di aver capito, girando su internet questa mattina. Ma in realtà Moyes è un signor allenatore, basta un dato: negli 11 anni all'Everton ha vinto 3 volte il titolo di manager dell'anno. Quindi non è certamente uno che era imbecillito nel momento in cui è arrivato sulla panchina dello United. Il problema dello United è che lui sostituiva non un allenatore, sostituiva una leggenda. Pensate a questo percorso: arrivi all'Old Trafford, ti trovi davanti la statua di Sir Alex Ferguson, entri nell'ufficio, ti trovi davanti una 30ina di trofei vinti da Sir Alex Ferguson, entri in campo, ti trovi di fronte a te una tribuna che si chiama Sir Alex Ferguson Stand, perché gli hanno intitolato pure tutta una parte della gradinata. È chiaro che questo peso non può non schiacciare chiunque, a maggior ragione uno come Moyes, che pur essendo, ripeto, un bravissimo manager, arrivava dall'Everton. E lui sicuramente non ha retto la pressione, ha commesso tanti errori, a cominciare dal mercato, ha aspettato fino all'ultimo ad acquistare un giocatore in estate, poi ha preso Fellaini sborsando una caterva di quattrini, accorgendosi poi che Fellaini non era all'altezza. Detto questo, gli ha dato anche tutto storto, basta pensare all'infortunio di Van Persie, e alla fine è finita nella maniera che a questo punto, da un paio di mesi a questa parte, era chiara a tutti. Sì, Pier, nulla però che non fosse noto già quest'estate, cioè il fatto che l'eredità di Ferguson era un'eredità difficile da raccogliere. Sì, no, l'eredità di Ferguson era impossibile da raccogliere, Nicola ha perfettamente ragione, è chiaro che ci sono 1000 attenuanti più che generiche per Moyes, però insomma qualcosa in più ci si aspettava. Adesso sinceramente io credo che ci sia anche una via di mezzo, insomma questo era comunque un anno di transizione, si sapeva che potesse essere un anno di transizione, ma un anno di transizione significa arrivare terzi, arrivare quarti, comunque mostrare. Pier, abbiamo proprio problemi di collegamento, vediamo se riusciamo adesso anche con Franco Piantanida a recuperarti. Continuo con Nicola, io ho sott'occhio l'elenco dei record dell'incontrario di Moyes, ovviamente quelli che pesano di più è la mancata qualificazione alla Champions League, non accadeva dal 95, il punteggio più basso in campionato, la peggior prestazione casalinga in tutta la stagione da una decina d'anni a questa parte, poi ci sono ad esempio sconfitte come quella con il Newcastle, che in casa non accadeva dal 72, diciamo che avrà anche 1000 attenuanti Moyes, però questi sono risultati che non rendevano possibile proseguire anche in un ambiente che con Ferguson ci aveva abituato a essere capace anche di aspettare gli allenatori in stagioni non propizie. È vero che Ferguson ci mise 4 anni a vincere il suo primo trofeo, è anche vero che Ferguson era di tono United, che non era certo lo United vincente che invece Ferguson ha lasciato a Moyes. Quando Ferguson arrivò, lo United non vinceva il titolo da 19 anni, quindi era una situazione totalmente differente. Ed è vero, come dicevate voi, che ci ha messo molto il suo Moyes. Faccio solo un esempio tra i tanti: si infortuna Van Persie, che resta fuori per tantissime partite dall'inizio di questa stagione, ed è sicuramente una iattura. È anche vero che in panchina lui ha un signore che si chiama Chicharito Hernandez, che è uno dei migliori attaccanti che ci sono in questo momento al mondo, classico attaccante d'area di rigore e non solo. Ecco, non è possibile che nel momento in cui si infortuna Van Persie, uno come Hernandez continua a partire dalla panchina e si insista fra l'altro per giocare prima punta Rooney, che prima punta non è, quindi facendo giocare un giocatore che non è Van Persie ed è presunta anche fuori ruolo. Quindi è uno dei tanti errori che ha fatto Moyes, insieme al fatto che non è mai riuscito a capire quale fosse la formazione migliore, ha cambiato l'11 di partenza in tutte le partite ed evidentemente a un certo punto è venuta, credo, a mancare anche la fiducia dei giocatori in questo tecnico. Del resto, quando si è abituato a Ferguson e passi a chiunque altro, l'autorevolezza del manager è fatalmente diminuisce. Pier, che ti aspetti adesso sulla panchina dello United? Non tanto subito ci si siede Giggs ad interim e poi si vedrà, si fanno i nomi Van Gaal, Simeone, Klopp, magari Conte. Cosa ti aspetti, Pier? Ma no, io lo chiederò a Nick, io ho un sogno, I have a dream, perché io sono gixiano e penso che Nicola lo sia, se possibile, anche più di me. E penso che se Giggs sarà in grado, in un'eventuale carriera di allenatore, di gestire il gruppo umano di uomini a sua disposizione, come ha gestito i suoi muscoli e la sua testa in una carriera incredibile, sarà un grande, nel senso che se c'è un giocatore intelligente nella gestione di se stesso in 20 anni di carriera e più, è Ryan Giggs, al di là del talento indiscutibile che c'è sempre stato. Ma insomma, Giggs è uno che ha cambiato modo di giocare negli anni, perché è cambiato fisicamente ed è riuscito, Ferguson scherzava, attraverso lo yoga, ma credo che lo yoga era solo con basti, a curare il fisico e a regalarsi una terza, quarta, quinta, sesta giovinezza. Quindi volevo capire da Nicola se siamo in due a segnare. Sì, se ha qualche chance di restare oltre l'interim su quella panchina. Sì, siamo in due a sognare, forse siamo in due nel mondo, ma siamo in due a sognare, Pier. I have a dream and I have a nightmare, cioè purtroppo anche l'incubo, perché temo che questo passaggio alla panchina ci toglie Gilkes dal campo. Era una cosa che tutti gli amanti del calcio hanno sempre temuto, sapevamo che prima o poi sarebbe accaduta, e a 40 anni è anche giusto che Gilkes vada a riposare sulla collina, come avrebbero detto gli indiani Navajos o i Cherokees. Questo è il nightmare. Il primo invece è vedere Gilkes proseguire questa sua straordinaria storia con il Manchester United. È sicuramente un giocatore che ha la giusta personalità, è un leader essenzialmente con l'esempio più che con le parole, è il giocatore che più di tutti ha vissuto l'esperienza con United, 24 campionati, qualcosa di straordinario ed impensabile. L'unico dubbio che probabilmente alleggerà nella dirigenza dello United è se avrà il coraggio di fare una seconda scommessa consecutiva. È stata persa la prima scommessa, muoio, sono un attore non vincente, non del calibro, faccio un esempio, di un Capello, di un Hitting, di un Ancelotti, di un Van Gaal, di un Guardiola, e vedremo se accetteranno di fare una seconda scommessa, sia pure con un nome straordinario. Io ci scommetto poco, Pier. Sì, io pure ci scommetto poco, però molto poco. In un'epoca mediatica come questa, nella quale comunque conta molto l'allure, come dicono i francesi, no? Il fascino, il carisma di un allenatore, con tutto il rispetto per Moyes, perché ha fatto benissimo a ricordare i tre trionfi come allenatore dell'anno, i risultati importanti ottenuti con l'Everton, perché lui si è stabilizzato proprio sotto alle grandi del calcio inglese. Quindi Moyes è proprio il classico allenatore emergente, come deve essere per esempio Allegri quando è arrivato al Milan, tanto per fare un esempio, no? Un classico allenatore di fascia alta, o lo stesso Mazzarri quando è stato chiamato al Napoli, cioè uno che ha fatto sempre bene, che era cresciuto molto e gli mancava la dimensione della squadra che doveva vincere. Giggs però, anche se non è allenato, ha un carisma, un fascino e soprattutto conosce Old Trafford, i suoi meccanismi e ogni succo d'erba e ogni stanza in una maniera... Sì, discorsi che facevamo anche su Seedorf, però, che doveva essere quello nato pronto, che conosceva tutto dell'ambiente Milan, che doveva essere in grado di interpretarlo. Mi sembra organico al Manchester United, mi sembra un tutt'uno con Ferguson, mi sembra un tutt'uno con la storia dello United. Seedorf, che chiaramente ha conosciuto Milanello benissimo negli anni, ed è stato uno degli interpreti più importanti che ci sono stati a Milanello, però è sempre stato un uomo libero, un cittadino del mondo, un uomo con un carisma, qualcuno dice anche con un ego di un certo tipo, no? Insomma, Giggs mi sembra veramente una scelta di enorme continuità, mi sembra una reincarnazione di Ferguson, mi sembra è quasi veramente il vice. Poi chi conosce lo United sa benissimo che Ferguson negli ultimi anni non è che dirigesse gli allenamenti. Sì, faceva l'allenatore in campo, già Giggs, quindi in realtà potrebbe essere un passaggio già mezzo fatto, quello verso la panchina. Chi vivrà vedrà. Nicola, prima di salutarti ti faccio sentire Mourinho 48 ore fa contro Mike Dean, l'arbitro che secondo lui gli è costato lo scudetto. Third point, I want to congratulate again, but this time is Mike Dean. I think his performance was unbelievable. And I think when referees they have unbelievable performances, I think it's fair also that managers we give them this. So fantastic performance. He come here with one objective, the objective of make a fantastic performance, and he did that. And fourth, I think it's also fair. Congratulations to Mike Riley, because he's the referee's boss, and what they are doing during all season is fantastic, especially in the last couple of months, especially in matches involved the teams that were in the title race is absolutely fantastic. And I also congratulate Mr. Mike Ryan. Tradotto velocemente, complimenti all'arbitro per il suo fantastico lavoro, complimenti al designatore che l'ha mandato. Domanda secca per Nicola Roggero: quanto si gioca Mourinho in questa semifinale di Champions questa sera e poi ritorno tra una settimana, visto che tradizionalmente il livello di sopportazione dell'ambiente che lo circonda è legato strettamente ai risultati, in questo caso del Chelsea? Ma il Chelsea sicuramente non avrà problemi di nessun tipo, perché lo Special One quest'anno è l'EP1. Il mio commento è semplicemente uno: in tutti i complimenti che ha fatto Mourinho si è dimenticato una cosa che lui regolarmente scorda, e cioè quella di complimentarsi con gli avversari che lo battono. Non ho mai sentito una volta era il punto uno, bisogna essere onesti, al punto uno dei quattro punti c'era il complimenti per il Sunderland, sì, che aveva vinto una partita meritatamente con gli avversari, e dopodiché dice però mi complimento con l'arbitro, sì, mi complimento c'è sempre con l'alibi, il giocatore, mi complimento eccetera eccetera, automaticamente il complimento per l'avversario automaticamente decade. Io credo che Mourinho sia non solo un fantastico allenatore, sia un grandissimo organizzatore. Io non ho mai visto uno stratega, soprattutto a livello difensivo, abile come Mourinho in campo. È una persona intelligentissima, probabilmente anche piacevolissima nel sentir parlare, e tutto questo diventa un aggravante, perché una persona proprio del suo livello dovrebbe rendersi conto che si può rimanere grandi anche stringendo la mano a chi ti ha battuto, e questo Mourinho si scorda sempre di farlo, e in questi casi dà veramente il peggio di sé. Grazie Nicola. Grazie a voi, saluto a Pier. Ciao, posso aggiungere una cosa in 20 secondi? Sì, intanto salutiamo Nicola Ruggero, prego Pier. L'abbiamo vista, il rigore non c'era, chiaramente il Chelsea magari il 2-1 poteva farlo, però eravamo all'80esimo, 82esimo, e il Chelsea stava giocando malissimo in casa contro l'ultimo in classifica in una partita che vale un scudetto, quindi le responsabilità ci sono. Poi Sunderland adesso è vivo, aveva appena pareggiato con Manchester City, delle squadre, è ancora ultima in classifica, ma sembra la migliore delle squadre che stanno lottando per la salvezza. Però il dato politico è quello, cioè il Chelsea stava facendo schifo in casa. Sì, molto più vero Mourinho quando nelle scorse settimane più volte ha detto: questa squadra non è ancora costruita per vincere, manca, costruiremo nei prossimi mesi. Tutti convocati. Carissimo Pier, c'è chi chiede anche come vediamo una bellissima cogestione Giggs-Scholes sulla panchina del Manchester United. Io continuo a essere convinto che a luglio verrà scelto un allenatore vero nel senso di già pronto, con un curriculum, un pedigree all'altezza di sopportare il peso di quell'eredità difficile, impossibile. È la scelta più logica, più razionale. Però io fammi sognare. Sì, tu continui a sognare che resti Giggs. No, io ti dico, non, insomma, le mie simpatie in Inghilterra vanno per l'Arsenal da quando sono bambino, perché mi sono innamorato di quella maglia lì, ma il Manchester United è una squadra della quale mi sono innamorato negli anni, conoscendola, perché è una, insomma, se ti piace il calcio inglese, è una generazione semplicemente superiore. Sono stati semplicemente superiori a tutti. Sono stati la squadra che ha fatto la storia in Inghilterra, e l'hanno fatta costruendola dal vivaio, dalla intelligenza eccezionale di quest'uomo particolarmente divertente, particolarmente burbero anche in certi casi, che era Alex Ferguson, e questi ragazzi qui sanno una cosa strepitosa. Sì, 25 anni di successi consecutivi, perché il Manchester ha vinto per 25 anni, a proposito di cicli vincenti, sì, ha vinto attraversato un quarto di secolo vincendo. Dall'89, no? dall'89 il primo titolo, la prima coppa, che siamo nel 2013, l'anno scorso, quindi volendo anche di più, sì, 24 anni, di cose straordinarie. E quindi diciamo che romanticamente il sogno c'è, insomma, di vedere Giggs ripetere in panchina quello che ha fatto in campo. Sono d'accordo con quello che diceva, cosa che poi è chiaro che questo significherà anche vederlo uscire dal campo dove è stato un giocatore incredibile, perché lui è riuscito, lui era un giocatore che lo ricorderete, insomma, nella sua fase giovanile era essenzialmente il miglior crossatore e dribblatore che c'era in giro per il campionato inglese, e uno dei migliori al mondo, e poi è diventato negli anni invece un centrocampista, sì, è stato capace di trasformarsi anche per adattarsi al fatto che passavano gli anni e cominciava a essere un po' meno dinamico come giocatore. Antonio da Brindisi, Antonio. Ciao, buonasera. Prego. Niente, io ho sentito la conferenza stampa di Mourinho, sì. Ho sentito che ne avete parlato. Io, è uno di quei momenti in cui vorrei essere giornalista, è proprio quello, cioè avere la possibilità di essere presente nella sala delle conferenze. Per dirgli cosa? No, per dirgli questo, cioè perché siccome noi sappiamo che Mourinho ha vinto tantissimo e non sempre è senza favori arbitrari. Ricordiamo, almeno io ricordo la Coppa dei Campioni con l'Inter, dove ci furono concili di Barcellona, ci furono un po' di episodi particolari. Ecco, perché magari quando un allenatore del genere fa queste affermazioni non gli viene detto, però guarda, Pier, perché non gli viene detto ricordati che col Porto, con l'Inter, col Chelsea, Pier? Quello. Beh, perché non è una chiacchierata a cena, amabile, trasmissione one to one, è una conferenza stampa in cui si fanno delle domande e sono domande, e quindi voglio dire, non devono essere troppo sbagliate, e questo magari delle volte è un po' il problema, ma non devono neanche necessariamente essere provocatori tanto per farlo arrabbiare. Quindi lui dice quello che dice, le dichiarazioni sono le sue, e poi sta a una seconda fase. Sì, c'è anche un momento in cui si raccolgono le dichiarazioni, c'è momento e momento. Secondo me il dopo partita non è il momento per fare un contraddittorio. In generale io dico che esistono sempre, questo proprio come grammatica giornalistica, è chiaro che le dichiarazioni di Mourinho, le dichiarazioni di qualcuno sono sacre, nel senso che sono dichiarazioni, quindi sono un punto di vista soggettivo e quindi anche divisivo, nel senso che non tutti sono d'accordo, poi c'è chi è più democristiano e chi lo è di meno, ma sono quelle, e quindi non è che ti devi mettere a fare botte con Mourinho in quel momento lì. Diverso è, si raccolgono e poi si analizzano si lasciano poi al giudizio delle persone, e poi probabilmente lo stesso Mourinho sa che non è tutto esattamente come l'ha raccontata, non è tutta colpa dell'arbitro, però ci sono momenti in cui servono lanciare messaggi diversi. Ripeto, lui ha anche detto che questo Chelsea non è il miglior Chelsea che avrebbe in testa. Pier, ti saluto. Ciao Pier, a domani. Domani torna anche Carlo Genta. Vi faccio sentire invece, preso da ieri, la caduta di Milano a Tel Aviv, Luca Banchi. Avremmo dovuto giocare una partita perfetta e tranne un promettente inizio poi purtroppo abbiamo dato il vantaggio di uno scarto che era difficile stasera colmare. Esperienza che entra, 7 giocatori esordienti per un contesto del genere non è qualcosa da poco, 4 di loro addirittura per la prima volta nella propria carriera in Eurolega, sono cose che necessariamente si devono scoprire sulla propria pelle. Vediamo se sapremo velocemente adeguarci, perché giocare qua è estremamente difficile ma straordinariamente stimolante, e mercoledì dobbiamo mettere la faccia giusta di chi veramente vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance. Pietro Scibetta da Tel Aviv, inviato della Stampa. Cosa è successo ieri sera? Prima volta col Maccabi davvero superiore a Milano. Sì, dopo due partite che Milano in realtà aveva controllato al Forum, salvo buttarne una, però la partita di ieri è stata la prima in cui il Maccabi ha veramente messo sotto le assette. Non ci aspettavamo una Milano così piatta, onestamente. Magari perdere ci può stare sempre qui a Tel Aviv, però la squadra è andata veramente sotto e soprattutto a mio parere è tornata a esibire quei difetti che sembrava aver limato con il passare del tempo e che avevano fatto di Milano indubbiamente una delle migliori squadre della stagione in Eurolega. Ieri purtroppo non è solo questione di aver tirato male da 3 punti, 4 su 25. Ma tirato male, dipende, cioè, ci sono stati buoni tiri sbagliati, ma tanti tiri forzati arrivati dopo isolamenti, dopo tanti troppi palleggi, con una squadra che non è mai entrata in ritmo. Il Maccabi ci ha messo del suo, ovviamente, con le difese tattiche proposte da Blatt, che Milano non è riuscita a leggere nella maniera adeguata, anche perché non stava facendo canestro da fuori. E poi, come dicevano i giocatori a fine partita, in particolare Langford, c'è stato un grande problema di difesa, perché dopo i primi 3 minuti in cui Milano è subito entrata in bonus, lì Banchi ha dovuto adeguarsi anche lui, mettendosi a zona e concedendo praticamente di tutto agli esterni del Maccabi in penetrazione. Quello è stato un fattore che indubbiamente ha cambiato la partita. Milano non è mai riuscita a tenere l'uno contro uno sul perimetro, e questo ha generato o punti facili in penetrazione, in particolare da Rice e Hickman, oppure scarichi per i tiratori loro. Poi sia Scorcianitis in area, sia Blu con la sua mano, sono stati fattori molto importanti. Sì, tra l'altro giocatori del Maccabi che ieri pian piano hanno acquisito quella fiducia che a Milano non avevano avuto, onestamente, nelle prime 2 partite. Per chiudere, Pietro, ha detto ieri Banchi, abbiamo qualche idea per gara 4, gara 4 da dentro o fuori, percentuali di sopravvivenza per Milano? Ma a questo punto è veramente difficile dirlo. Io resto convinto che Milano potenzialmente sia più forte del Maccabi. Poi quello che diceva Luca è anche vero, cioè ci sono dei giocatori che sono esordienti a questo livello e va considerato. Manca Gentile e questo va considerato, soprattutto se pensiamo che Langford è stato buttato in questa serie dopo praticamente un mese di inattività, per un infortunio muscolare e una sola partita inutile giocata a Malaga con risultati ormai acquisiti. Quindi sta mancando qualcosa indubbiamente. Onestamente fare una percentuale risulta impossibile. Il Maccabi non è una squadra di talento sconfinato, è una squadra che ha bisogno di fiducia, ha bisogno di fare canestro soprattutto all'inizio della partita per scaldarsi e per scaldare la Nokia Arena. Se dovesse riuscirci anche domani, Milano dovesse andare sotto di 7-8, diventerebbe tutto maledettamente difficile a quel punto. Penso di sì, onestamente penso di sì. Grazie Pietro. Però, è una sfida esaltante, quindi vediamo come va. Grazie Pietro. Grazie a voi. Grazie Pietro Scibetta da Tel Aviv. Ci fermiamo, c'è il GR, torniamo subito dopo il GR, parliamo dei conti del calcio con Marco Bellinazzo. Io credo che per Pogba sia ancora il tempo di crescere in un habitat lui congeniale e naturale che è la Juventus, che l'ha un po' così svezzato. No, penso che sia stato un buon weekend dove mi ho trovato sicuramente comodo dal venerdì, non avevamo cambiato praticamente il setup della macchina, tutto funzionava come volevamo. Avremmo dovuto giocare una partita perfetta e tranne un promettente inizio poi purtroppo abbiamo dato il vantaggio di uno scarto che era difficile stasera colmare. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Paul è un giocatore straordinario ed è, come dire, patrimonio dell'umanità. Ma di la verità noi non abbiamo avuto nessun contatto con loro, né tantomeno abbiamo intenzione di venderlo. Io credo che per Pogba sia ancora il tempo di crescere in un habitat lui congeniale e naturale che è la Juventus, che l'ha un po' così svezzato, perché in realtà è arrivato da noi giovanissimo. Noi non abbiamo nessuna voglia di privarcene, per cui ce lo terremo ben stretto. Questo argomento noi lo affronteremo più avanti quando parleremo di programmi futuri, compreso anche Pogba. Oggi come oggi noi non abbiamo ricevuto proposte, né tantomeno le andiamo a cercare, sottolineando, come vi ho detto più volte, che noi siamo una società comunque che vuole vincere, una società compratrice e non venditrice. Sì, Bale vale 100 milioni, Pogba e Balotelli, ma Mimmo il doppio. Non si vende Pogba, o forse si vende, certezza che questa mattina la colazione è andata di traverso a milioni di tifosi della Juventus che hanno sfogliato la Gazzetta dello Sport e hanno scoperto che forse la Juventus potrebbe essere costretta a vendere Pogba, non per sanare i conti, perché i conti della Juventus sono meno peggio di quelli di tanti altri club italiani. Però servono quei soldi, servono per finanziare il salto di qualità che chiede Conte, che chiede la società, che chiedono i tifosi, che chiedono un po' tutti perché la Juventus sia competitiva anche in Europa. A proposito, vi ricordo, convocato per un giorno, file di un minuto, MP3 da mandare a tutti i convocati, tema della settimana, la Juve che domina in Italia, cosa serve per vincere in Europa? Il migliore verrà qui a fare l'opinionista per un giorno a tutti convocati. 800 24 00 24, microfono aperto non solo per i tifosi della Juventus, perché noi abbiamo convocato il dottore dei conti del calcio italiano, Marco Bellinazzo. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, pomeriggio a tutti. Per cercare di spiegare un po' a tutti che cosa sta succedendo, partendo proprio dalla Juventus, da Pogba, discussioni su Twitter dei tifosi, ma come, siamo gli unici con lo stadio di proprietà e dobbiamo vendere altrimenti falliamo. No, non è questo il discorso. No, c'è bisogno però di fare un'analisi molto chiara, come è stata fatta questa mattina da Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport, un'analisi che metta a fuoco due dati fondamentalmente, i ricavi e i costi, perché non si sfugge più da questa dicotomia ormai. Tutte le società devono fare i conti, soprattutto se sono società come nel caso della Juventus, che hanno dichiarato di voler essere autosufficienti. Chiaramente la Exor, la famiglia Agnelli, il Campo potrebbero mettere dei soldi nella Juve, ma hanno dichiarato di non volerlo fare e hanno dichiarato di voler rispettare i suoi play finanziari. Ora, cosa è successo in questi anni? Che la Juve ha fatto moltissimo, ha fatto crescere non solo una squadra che domina in Italia, vedremo se riuscirà anche a farlo in Europa, ci auguriamo di sì, ma è cresciuto il fatturato anche, perché il 76% sì, dal 2011 sì, era all'ultimo bilancio, da 170 a 280 milioni, insomma, quindi è stato fatto uno sforzo in quella direzione. Il problema è che non ci sono più i margini per farlo crescere in fretta questo fatturato, perché dal punto di vista dello stadio si è arrivati in qualche modo al massimo di quello che si può trarre da uno stadio da 40.000 posti. Sì, o si aumentano, si raddoppiano i prezzi degli abbonamenti, dei biglietti, il famoso modello Chelsea. Io non escludo che in qualche modo la Juventus si muova ancora su quella strada, l'ha già fatto in questi due anni, però per arrivare ai livelli del Chelsea e della Premier League, secondo me non sarebbe probabilmente nemmeno opportuno. Però assolutamente questa è una mia valutazione, no, assolutamente no, ma anche non Agnelli sarebbe... ha parlato di modello Chelsea più di una volta, ma non sarebbe praticabile per il semplice fatto che il costo della vita a Londra, come chiunque ci sia andato sa, insomma, è il doppio di quello che c'è in Italia, quindi già questo ti dà un attimo la dimensione. È chiaro che se sei una big del calcio europeo, dallo stadio dovresti ricavare almeno 80 milioni, e la Juve, per quanti sforzi possa fare, insomma, quella cifra non ci può arrivare. Questo tradotto significa che per crescere di fatturato servono le famose plusvalenze. Quella più facile da realizzare è quella di Pogba, che è arrivato praticamente gratis. Io non credo valga 70 milioni cash sul mercato, voglio vedere chi porta un assegno da 70 milioni a Torino, ma fosse anche leggermente inferiore questa cifra, significherebbe una plusvalenza secca di 50, 60, 70 milioni. Cosa si fa con quei soldi? Beh, con quei soldi si fanno quegli acquisti che servono a puntellare la squadra, si fanno quegli acquisti di qualità e di esperienza che Conte vuole, e soprattutto si cerca di come dire, dare, fornire un po' di drenaggio alla parte, come dire, dei costi, nel senso che in questi anni si è aumentato il fatturato, sono aumentati anche tantissimo gli ingaggi. Agnelli aveva fissato un'asticella a 200 milioni tra ingaggi e ammortamenti, cioè i costi dei cartellini che vengono spalmati anno su anno, e questa asticella già nel 2013 è stata superata, è stata quasi superata, insomma. L'anno prossimo lo sarà senz'altro, perché solo nel primo semestre sono aumentati del 18% gli ingaggi, e il problema vero poi intorno alla cessione, all'opportunità di cedere Pogba, è questo: che Pogba stanno arrivando offerte da 7-8 milioni di ingaggio all'anno. 7-8 milioni significano 14-15 milioni di costo per la squadra, e nessun club italiano e pochissimi in Europa si possono permettere questi soldi. Significa che se anche la Juventus gli proponesse di triplicare l'ingaggio a 4 milioni e mezzo, a 5, sarebbe comunque fuori mercato rispetto alle big europee. Detto questo, secondo me è ragionevole dire che Pogba a luglio partirà, malgrado la Juventus continui a dire che non interessa alcuna offerta. E secondo me si spiega anche perché quest'inverno non ci sia stato il famoso incontro con il management del giocatore, che era stato annunciato per gennaio, rimandato a febbraio, portato a marzo. Siamo quasi alla fine di aprile, il contratto non solo non è stato rinnovato, ma lo hai sentito, Pogba ha detto anche dopo la partita con il Bologna: io, nessuno della Juventus mi ha mai chiamato per parlare di rinnovo di contratto. C'è in corso una valutazione molto approfondita naturalmente nel club bianconero. Il problema non è se vendi Pogba, è semplicemente di decidere quando, cioè se cercare di farlo rimanere, maturare un'altra stagione e far aumentare il prezzo del cartellino, come è appunto accaduto in questi ultimi mesi, oppure se cederlo subito. Io penso che uno spartiacque sarà il mondiale. Ecco, se Pogba farà un mondiale, come è presumibile, insomma, a livelli che gli conosciamo, è chiaro che di fronte a un'offerta poi da 50-60 milioni, insomma, sarebbe davvero assurdo e un peccato, insomma, non accettarla, proprio perché, ripeto, con quei soldi poi la Juve può fare quegli investimenti che sono indispensabili. Sì, perché con 50-60 milioni di plusvalenza poi tu puoi anche prenderli un paio di top player, perché poi i bilanci vengono costruiti in mille modi, quindi non si fa lo scambio delle figurine. Assolutamente. 50 c'è, e c'è poi il precedente di Zidane, no? Di una decina d'anni fa. Si può fa. Fare una squadra competitiva anche più forte, quindi non è necessariamente una cattiva notizia, è solo un'analisi. 800 24 00 24, questo per cominciare a mettere dei paletti. Poi parliamo anche di altri, perché ad esempio in tanti si chiedono: ma come, la Juve conti abbastanza in ordine e non può spendere, la Roma, che storicamente è conti in rosso, oggi c'è scritto sui giornali, investirà 35 milioni per la Champions. Cercheremo di capire. Luca da Torino. Luca. Sì, ciao, mi riferivo ai discorsi che facevate prima, sì, sulla difficoltà delle squadre a fare fatturato. c'è anche comunque un'abitudine che sembra non abbia nessuna voglia di passare, che è quella di andare allo stadio e trovare comunque sempre i gadget rigorosamente falsi di qualsiasi squadra, e le squadre lo sanno benissimo che c'è questa tendenza a vendere cose fasulle, taroccate, che vuol dire perdere soldi, perdere fatturato per le società, e non si fa nulla per smontare questo costume. Sì, più che non si fa nulla, si fa fatica, Marco. Sì, era uno dei temi. Pensiamo anche, non so, al tema della ristorazione, no? Avere tutti le famose bancarelle, ecco, intorno agli stadi. Ecco, non avere quelle, avere invece all'interno dello stadio delle strutture che permettano, insomma, ai tifosi di consumare pasti durante la partita, prima, dopo, insomma, senza alcun limite, e permetterebbe alle squadre di avere nuovi introiti, nuove fonti di ricavo. E quando parliamo, insomma, di modelli inglesi, del modello Chelsea, parliamo, Giovanni, anche di questo, insomma. Sì, il problema è che in Italia, ultima analisi, quella della Federcalcio settimana scorsa, calano tutte le fonti di ricavo da stadio, aumenta soltanto quella della televisione, quindi significa che non siamo ancora nemmeno su un percorso virtuoso. Santo da Catania, questo non riguarda solo la Juve, riguarda in generale tutto il movimento. Santo? Pronto? Prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho chiamato io, grazie intanto per avermi convocato. Dica, Santo. No, per quanto riguarda la Federcalcio, per il presidente Malagoli che diceva che il nostro campionato non è divertente, sentivo il signor Pardo che lo paragonava alla Bundesliga o alla Francia, però lì ci sono squadre come Bayern Monaco che sono delle potenze, poi Saint Germain. Cioè in Italia queste squadre non sì, però di sicuro Santo non è divertente. Adesso la sfido a dire che la Bundesliga di quest'anno è stata divertente. Sì, no, non è stata divertente per niente, assolutamente. Solo che lì magari c'è Bayern Monaco che è veramente una. Sì, c'è qualcuno di livello assolutamente superiore, ma in assoluto e non solo in termini relativi. Eccetera, eccetera. Ma però in Italia credo che Napoli, la stessa Fiorentina, potevano dare più fastidio alla Juventus e alla Roma. Sì, però credo che il problema sia stata la Juventus e non le altre. Per carità, i 68 punti del Napoli magari sono pochi, potevano essere 70, 71, 72. Il problema è che ne hai davanti una che sta a 90, a 4 partite dalla fine. Riccardo, dalla provincia di Macerata. Riccardo. Grazie per la convocazione. Prego. Io volevo fare un riferimento riguardo al Juve, io sono tifoso juventino. Il problema secondo me non è tanto quanto vendere Pogba, che secondo me va venduto a quelle cifre, quanto la Juve è disposta a versare oltre la cifra che incasserà la Pogba, perché se si pensa di vendere Pogba senza comunque aggiungere una quota significativa al mercato, è comunque un tesoretto perso, a mio avviso. Marco, perché per fare il salto di qualità io non credo sia così, perché poi ripeto, i bilanci sono scritti non come al fantacalcio dove tu incassi 50 e puoi spendere 50, una plusvalenza da 50-60 milioni ci campi un paio di anni. Prego, sì, Marco. Nel caso della Juventus sarebbe una plusvalenza pulita, perché ricordiamo, insomma, Pogba è stato acquisito a parametro zero. Peraltro va detto che la Juventus in questi tre anni, nei tre anni diciamo dell'era Conte, ha investito sul mercato 155 milioni. Questa sì, è una risposta anche a Conte, che sì, io l'avevo aumentato i mercati avevo scarsi. Provato a scriverla in un post, insomma, sul mio sito. Allora, ha impegnato 250 milioni in questi tre anni e ne ha incassato 100, quindi l'impegno finanziario di 150 milioni è un impegno, per esempio, rispetto alla polemica con Napoli, che è il doppio di quanto il Napoli abbia investito negli stessi tre anni. Questo per dire che gli sforzi del club bianconero per rinforzarsi sono stati fatti, e lo vediamo, ripeto, anche dal fatto che gli ingaggi stanno schizzando in alto. Quindi la Juve in questo momento ha bisogno di tenere conti in equilibrio, e quei 70 milioni, voglio dire, permetterebbero di avere dei rinforzi, anche se magari senza aggiungere un assegno ulteriormente. Ti leggo alcuni messaggi che sono arrivati. La Juve vuole fare cassa e allora proponga una campagna di autofinanziamento dei tifosi, 5 euro a testa come offerta, dando in cambio alcuni privilegi. Altri scrivono 70 milioni per Pogba sono assurdi, perché non fa la differenza. La Juve ha lo stadio troppo piccolo, sono al massimo dei ricavi e chi vuole andare allo stadio come me è tagliato fuori. Fabio da Torino. E poi Salvatore da Milano che dice: non ci sono margini per aumentare i biglietti, avete visto quanto costano i biglietti di Juventus Benfica? I margini ci sono, perché in realtà i margini ci sono. Il modello inglese a cui ha spesso fatto riferimento il presidente Agnelli è un modello in cui gli abbonamenti, e la Juve fa praticamente l'80% della capienza venduta in abbonamento, costano mediamente il doppio di quello che costano a Torino. Roberto dalla provincia di Trento. Roberto. Buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Io mi riallacciavo al discorso sulla qualità delle squadre italiane, se è ancora possibile fare una valutazione, perché mi sembra che comunque qualche squadra italiana in Europa si sia comportata molto bene e sia uscita anche per un po' di sfortuna. Mi riferisco al Napoli dell'anno scorso, alla Juventus di quest'anno, allo stesso Milan, che contro l'Atletico Madrid non avrebbe sicuramente meritato di uscire. Sì, insomma. O mi sbaglio? Ma non lo so, io mi sembra che il ritorno sia stato una specie di massacro sportivo, il ritorno, quello di Madrid tra l'Atletico e il Milan, ma magari ricordo male io, Marco. Sì, io credo che Napoli e Juventus avrebbero potuto fare un po' di strada in più, insomma il Milan ha fatto molto. Il parametro sicuramente a cui faceva riferimento Malagò nel dare questo giudizio non è tanto quello della capacità di competere in Europa, perché si può arrivare a un certo punto anche con un fatturato limitato come l'Atletico Madrid sta dimostrando. È il problema di qualità del campionato che sta scendendo, e lo vediamo anche con questi discorsi, no? Su tanti campioni che si formano in Italia e poi vanno all'estero, e c'è sicuramente da ripensare un modello. Io credo che per esempio la riduzione a 18 squadre potrebbe essere utile, ma è fondamentale che all'interno delle società ci siano delle strutture, diciamo, organizzative, aziendali, manageriali, capaci di far fruttare il business, perché all'estero stanno dimostrando che si può fare business col calcio, non è un mondo in cui semplicemente si buttano soldi. Domanda dei tifosi della Juve: perché la Roma, che pure ha un bilancio storicamente in rosso, può spendere? In cantiere c'è il rinnovo di Pjanic, il rinnovo di Rudy Garcia, c'è un tesoretto da quasi 40 milioni per finanziare la prossima stagione, perché loro sì e la Juve no? Beh, vediamo. Vediamo se poi sarà così. Certo, c'è l'aver conquistato la Champions League, quindi una trentina di milioni che arrivano certamente da questa fonte. Ci sarà il contratto con Nike che entra in vigore, una serie di altri accordi di sponsorizzazione che permetteranno di avere più ricavi, però non so se ci sarà da parte della dirigenza della Roma la possibilità di muoversi esattamente con questa libertà economica. Tutto dipenderà da Sabatini. Sabatini è riuscito finora a fare un grande mercato facendo delle plusvalenze degli attivi, e se continuerà da questo punto di vista a gestire il calciomercato giallorosso, Sabatini potrà permettere, insomma, al club di rinforzarsi senza svenarsi. Sì, perché la verità è che poi la Roma ha venduto anche molto e non ha solo comprato bene. Poi c'è un amico che chiede invece notizie sul Milan: ma come, non erano a posto i conti dopo i sacrifici di 2 anni fa? Adesso scopriamo che invece anche il Milan è in difficoltà. Beh, è appena chiuso un bilancio meno 15, meno 16, riportando però di fatto diciamo l'equilibrio tra costi e ricavi in una situazione accettabile. Non si perdono più 70-80 milioni all'anno. È chiaro che anche il Milan, come la Juve, ha raggiunto un certo equilibrio, quindi una situazione per cui il proprietario non deve più staccare assegni da 10, 30, 50 milioni all'anno, deve però capire come aumentare i ricavi per poter reinvestire nuovamente sul mercato. I ricavi che invece scenderanno, perché nel prossimo bilancio poi mancherà la Champions League, vedremo se il Milan riuscirà a entrare nell'Europa, che conta un po' meno, ma che comincia ad avere una torta anche invitante, perché non è vero che l'Europa League non conta nulla dal punto di vista economico. C'è l'esperienza del Chelsea dell'anno scorso che lo insegna, ci sono possibili ricavi anche complessivi da una ventina di milioni di euro, compreso lo stadio, quindi insomma io ci andrei piano, ci penserei un paio di volte se fossi un club italiano anche di alto livello, prima di dire che l'Europa League non interessa. Del resto mi pare di aver capito che anche Galliani l'ha spiegato, potremmo stare qui a fare i conti, ha detto, ma lo dobbiamo agli sponsor, lo dobbiamo ai tifosi, lo dobbiamo al club, non si può pensare che o c'è la Champions o non c'è nient'altro. Il palcoscenico internazionale è fondamentale, soprattutto quando si è una società che, come dire, aspira ad avere sponsor internazionali e la necessità per esempio di rinnovare il contratto con Fly Emirates è legata proprio, come dire, anche alla possibilità di offrire, di mettere sul piatto la partecipazione a una competizione internazionale. Ugo, cioè, dalla provincia di Chieti. Ugo, buongiorno. Io volevo intervenire riguardo alla possibile vendita di Pogba. Sì. Probabilmente verrà venduto forse al Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain non è che abbia tutti questi ricavi dalle televisioni, ha una sponsorizzazione farlocca dall'ente del turismo del Qatar e questo non rientra però nei parametri del fair play UEFA. Vorrei sapere l'UEFA cosa fa. Dobbiamo pazientare ancora qualche settimana, Marco, per capire cosa fa. Sì, dopo credo la finale di Champions League avremo il verdetto, sarà la prima vera applicazione del fair play finanziario e capiremo cosa la UEFA intende fare, in particolare con questa mega sponsorizzazione. Tra l'altro io ho appena pubblicato sul mio blog Calcio e Business, chi vuole può andare, andate su Google, cercate Calcio e Business Marco Belinazzo, trovate, a curiosare, e proprio grazie a questa mega sponsorizzazione nel biennio 2012-13 il Paris Saint-Germain ha chiuso con un rosso di appena 9 milioni, portando il fatturato in due anni da 100 a 400 milioni. Chiaramente è qualcosa di inaccettabile per i club che hanno rispettato il fair play finanziario, ma è anche una presa in giro. La UEFA deve capire se i soldi degli sceicchi sono fondamentali per far continuare a girare la giostra, allora lo deve dire, ha il dovere di dirlo, oppure se così non è, se invece il percorso che è stato fatto finora è un percorso serio, ha il dovere di sanzionare pesantemente il Paris Saint-Germain, perché e il Manchester City, che è l'altra squadra assolutamente fuori tutti i parametri del fair play finanziario. Cioè, diciamo la verità, o PSG e Manchester vengono esclusi dalla prossima Champions, che è quello che si era paventato all'inizio, oppure ci sarà stata un passo indietro, mezzo passo indietro da parte dell'UEFA, perché poi i soldi contano, interessano un po' tutto il movimento, politicamente non è facile tenere fuori due club di questo livello, però insomma è talmente evidente quanto il Paris Saint-Germain sia fuori che o lo esclude dalla prossima Champions, come avevi fatto capire all'inizio di tutto, oppure è evidente che è una decisione politica. Purtroppo per le indiscrezioni che ho raccolto si sta andando verso una sanzione intermedia ed è chiaramente una presa in giro, è una decisione, come sottolinei, politica. Bisogna vedere se i club che invece rappresentano la nobiltà del calcio europeo, come il Bayern Monaco, come Real Madrid e Barcellona, accetteranno questa soluzione oppure faranno buon viso a cattivo gioco. Abbiamo ancora un paio di ascoltatori, ci sono anche un paio di domande. La prima: vendere il nome dello stadium per la Juventus. Raffaele, ci hanno provato? Beh, ci hanno provato, l'ha venduto la Juventus, ha venduto a Sport 5, però non è stato trovato un acquirente che offrisse un contratto adeguato, e quindi per il momento insomma i naming rights dello Juventus Stadium sono in realtà tecnicamente ceduti, anche se non c'è uno sponsor insomma che li ha acquistati. Poi la Juve avrà Adidas quest'estate? No, credo dall'anno prossimo. Roberto da Milano. Roberto, buongiorno. Prego. Come è la trasmissione a Capuano? Dica. No, io parlavo riguardo sui giovani. Sì. Ecco, ad esempio il Milan, dico, se non potrebbe spendere sul calciomercato il prossimo futuro, no? Puntare sempre sui giovani di buon livello, certo, e quindi non so. E poi riguardo anche l'allenatore, se non dovrebbe centrare l'obiettivo Europa League, cosa succede in panchina? Cosa succede in panchina credo non lo sappia nessuno al Milan. Io credo che Seedorf lo accompagnerebbero volentieri alla porta. 7 milioni lordi, 2 anni ancora di contratto, ci dovranno pensare parecchio, perché sì, non sono più tempi in cui si può mandare via un allenatore che hai sotto contratto ancora per 2 stagioni. Sia un piccolo record il tempo in cui, diciamo, Seedorf è passato dall'essere il salvatore della patria a un oggetto indesiderato. Marco, stai qui perché abbiamo ancora Marco da Pistoia, alcune altre telefonate, poi ti devo far sentire perché devi partecipare al contest per il nuovo inno del Napoli. Ho già buttato giù qualche rima. Tutti convocati. Scrive Alessandro di Finale Emilia: vorrei ricordare che a differenza di Germania e Inghilterra l'Italia può offrire la domenica qualcosa di meglio del calcio, ovvero mari, monti, città d'arte, eccetera eccetera eccetera, ma non credo che il problema sia quello. La Juventus precisa che ha venduto per abbonamento poco meno di 28.000 posti dei 41.000 dello stadium, quindi sono meno del 70%. Ringraziamo della precisazione, noi avevamo detto l'80%, però insomma il succo del discorso era quello. Comunque precisiamo. Marco da Pistoia, Marco. Sì, buonasera. Buon pomeriggio, prego. Niente, volevo un parere vostro, no? Si parlava di questo tesoretto che forse la Juve avrà a disposizione per rifare la squadra, che è una cosa bellissima. Io da simpatizzante juventino sono un po' preoccupato, perché visto le capacità anche in passato di fare mercato da parte della Juve con tutta una serie di colpi non azzeccati trovati, insomma non so bene come si riuscirà. Cioè, non ho molta fiducia, ecco, perché sì, mi sembra, Marco, che lei possa stare sereno, però lo dimostra l'ultimo mercato. In fondo Tevez e Llorente insieme, bonus compresi, credo alla fine siano costati una quindicina di milioni. Tevez, Llorente zero. Cioè, non mi sembra che la dirigenza della Juventus abbia dimostrato nelle ultime due stagioni dei problemi a fare mercato. È evidente che gli acquisti si possono azzeccare e sbagliare, ma le ultime operazioni in casa Juve, penso per esempio a Vidal, sono state operazioni molto fruttuose che hanno non solo permesso di raggiungere risultati importanti, ma anche arricchito il valore patrimoniale della squadra. Franco da Torino, Franco. Allora, ascolta, innanzitutto ti faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. La ritengo una delle migliori proprio, se non la migliore. Cioè, mi sembra strano sentire il tifoso della Juve che si lamenta. Io sono un milanista, penso un po' in quale situazione mi trovo. Cioè, che sono 2-3 anni che stiamo penando come dei disgraziati. Allora, io mi domando e mi chiedo, io sono una di quelle persone che ha fatto abbonamento a 10 anni a questa parte a vedere le partite in casa del Milan. Ma se io mi devo trovare con un Milan del genere, faccio uno che è abituato a mangiare caviale e poi deve mangiare pasta e fagioli, io, mi abbi pazienza, io, ma come fa una persona a dire, cioè, cerchiamo di stare vicino, io, per dire alla squadra, perché cercheremo di investire, io, diciamo, il futuro del Milan con dei giovani. Abbiamo provato per due anni, non so come abbiamo fatto a fare la Champions, perché onestamente non si meritava proprio di andare. Se c'è una squadra che meritava era la Fiorentina, onestamente, buon milanista. Oggi come oggi, per dire, io onestamente non spenderei più un soldo per andare a vedere il Milan. Sì, le leggo, Franco, che cosa ha dichiarato Barbara Berlusconi questa mattina a Vanity Fair, edizione spagnola: il nostro business è il calcio, ma ci sono innumerevoli attività collaterali che possono generare un sacco di profitti, come vendita di magliette e sponsorizzazioni. L'importante non è solo vincere titoli, ma anche fare soldi. Barbara Berlusconi questa mattina a Vanity Fair. Marco. Beh, non è semplice gestire l'azienda calcio, perché devi coniugare appunto quelli che sono i modelli di business con le aspettative dei tifosi, e quindi creare una squadra che sappia divertire e sappia vincere. Io credo che tutto sta nella comunicazione. Barbara Berlusconi lo ha detto: sceglieremo la linea verde. Io non credo però che in questi anni si sia davvero perseguito il progetto della linea verde. C'è desciglio, ma sono stati fatti, diciamo, tanti acquisti o comunque tante operazioni a parametro zero con giocatori stranieri di esperienza per tenere in piedi la squadra, e forse questo ha interrotto questo processo di rinnovamento. Io credo che i tifosi del Milan, con un discorso chiaro e con magari una squadra divertente messa in campo con tanti giovani magari del vivaio, avrebbero la forza di affrontare qualche anno di dieta, no? E per tornare poi un giorno a mangiare caviale. Certo. Lorenzo da Bologna. Buongiorno, salve. Prego. Salve, convocazione. No, io tifo Bologna, quindi siamo nel rush finale, siamo tutte lì quest'anno. Volevo solo segnalare una cosa, visto che noi pensiamo sempre tutto il bene di che tutti siano precisi, ma la penultima giornata c'è Sassuolo-Genova, se non vado errato. Sì. E in caso in cui Sassuolo rimanga Serie A, il Sassuolo paga 5 milioni di euro al Genova. Questa è giusto come segnalazione, quindi era... Cioè, uno dice, magari poi i risultati ci daranno conto. Per cosa, Lorenzo? Perché sfugge. Perché magari a fine delle partite, gli ultimi giorni del campionato, sempre dei risultati strani. Sì, no? Ma non ho capito perché il Sassuolo dovrebbe pagare il Genoa 5 milioni di euro. Perché sono due giocatori, come a contratto, col fatto col Genoa, che se rimane in Serie A al Genoa questi giocatori deve pagare un bonus da 5 milioni di euro al Genoa. Ma però questi sono accordi che riguardano anche altre società, ammesso che siano. Io adesso onestamente non conosco questa situazione circoscritta a Sassuolo e Genoa. Comunque il Sassuolo ha la Juventus, la Fiorentina, il Genoa e il Milan. Se posso darle il mio parere, il Sassuolo è candidatissimo insieme al Catania ad andare in Serie B, e poi l'altro posto se lo giocheranno Bologna e Livorno. Questo però è il mio parere. Grazie Lorenzo. Del resto, se questi sono accordi, questa sera gioca Courtois, ha detto Mourinho, le decisioni dell'UEFA non si commentano ma si applicano. Sarebbe bello magari scrivere una regoletta che evita questo cortocircuito. Sì, Premier c'è, per esempio, quando un giocatore è di una società ed è in prestito, comunque con proprietà, che sappiamo che è un unicum del nostro sistema calcistico. Insomma, i giocatori forse sarebbe il caso di non schierarli, insomma, i giocatori, proprio per non metterli in difficoltà. Comunque però, approfondiremo insomma, questa cosa dei 5 milioni del Genoa e del Sassuolo. Inno del Napoli. Quest'anno di Ossurdato Innamorato. Sì, che devo dire, non è che mi piaccia molto, no. Mi faccia impazzire. Ma difatti non piace neanche a De Laurentiis, che ha detto che la cambia perché vuole un rap, vuole un inno un po' più incazzato. Quindi, Marco Bellinazzo, grande tifoso del Napoli, prego. E quindi, niente, faremo questa gara, faremo, nel senso, tutti i tifosi del Napoli sono invitati a partecipare, insomma. Tra l'altro c'è una nouvelle vogue del rap a Napoli, insomma, penso a Rocco Hunt, che ha vinto Sanremo Giovani, insomma, c'è Clementino, ci sono tanti giovani che si cimentano in questa nobile arte, e magari da loro verrà il nuovo inno arrabbiato, così magari la squadra, in particolare con le piccole. Sì, ma non è un boomerang toccare una cosa come l'inno che richiama la storia, io credo la che sia una trovata, insomma, del presidente. Dopodiché io sono da innamorato, insomma, resta nel cuore dei napoletani, e nessun'altra canzone potrà sostituirlo, ecco. A proposito di fatturati e di big in Europa, abbiamo parlato prima di Atletico Madrid e Chelsea questa sera 20:45. Domani c'è la sfida fra i due colossi, Real Madrid e Bayern. Allora vi faccio sentire Ancelotti su Cristiano Ronaldo, che dovrebbe giocare. Cristiano si entrenò normalmente oggi, ha entrenato bene in questi ultimi giorni. Mañana tenemos un'altra prova con él para estar seguro, e después tomamos la decisione. Es claro que va a jugar, si todo el mundo está seguro que puede jugar sin problema. Tenemos confianza en este momento, pero tomamos la decisión mañana. Insomma, Cristiano Ronaldo sta bene, si è allenato, se non rischia una ricaduta giocherà contro il Bayern Monaco. E poi ancora Ancelotti sul Bayern di Guardiola. Non dico che Barcellona è come Bayern, ma la filosofia che ha planteato Guardiola è più o meno la misma, naturalmente con giocatori con distinta qualità. Entonces necesitamos un trabajo fuerte, necesitamos un trabajo defensivo compacto, necesitamos también un control del juego. No es que vamos a jugar un partido para bloquear el equipo contrario, cuanto para intentar de jugar nuestro juego y utilizar toda nuestra calidad en el campo. Esto creo que es lo que necesita para ganar una semifinal de Champions. Tanto ci sono amici che scrivono: è da una settimana che cerco di comprare 3 biglietti per lo stadium senza successo, ci vogliono 3 lauree, poi non si lamentino che non hanno budget. Tanti altri messaggi, poi li giriamo anche alla Juventus. Real Madrid e Bayern, cioè quell'obiettivo dove noi probabilmente non arriveremo mai, non nei prossimi 4-5 anni. Credo che messi insieme facciano 900 milioni di fatturato, insomma, sono cifre iperboliche. Tutto il calcio italiano, insomma, fa 1,4, 1,5 miliardi, quindi rendiamoci conto di dove sono arrivati questi club. È chiaro che come si fa? Si inizia a costruire stadi, si inizia a implementare una gestione manageriale capace di far fruttare tutte quelle risorse che anche Barbara Berlusconi indicava, e si inizia con un processo lungo, insomma con un piano di 5-10 anni. Sicuramente non lo si può fare da oggi al domani, consapevoli del fatto che anche con minor budget, e ripeto, l'Atletico Madrid è la squadra per cui tiferò in queste semifinali, essendo sulla carta la più debole, con 120 milioni, 150 milioni di fatturato, è riuscita ad arrivare lì e magari se la giocherà fino alla fine. Quindi sì, è riuscita ad arrivare a vincere due volte l'Europa League nelle ultime tre stagioni, perché non è solo la stagione di quest'anno meravigliosa, magari la Liga, poi chissà che cosa fa in Champions, ma è tutto un percorso. Dai, abbiamo ancora Edoardo dalla provincia di Venezia. Edoardo, buongiorno. Buongiorno, non sono prego. Dalla provincia, sono proprio di Venezia. Venezia, Edoardo, prego. Niente, col discorso di prima di Pogba, se devono venderlo hanno sempre fatto di testa sua, dunque che lo vendino e che un giocatore ne prendiamo tre, semplice. Sì, un po' come fu anche fatto con la vendita di Zidane, Nedved, Buffon, Turam, addirittura Cannavaro, Inzaghi. Beh, fu rifatta mezza squadra. Per allora chiudere il cerchio, lo stesso Atletico Madrid è riuscito in questi anni, vendendo Torres, vendendo Falcao, a rimpiazzarli con ottimi giocatori e a trovarsi dove oggi si trova. Grazie Edoardo, grazie Marco, ti saluto. Grazie, a presto, ciao Giovanni. Grazie Marco Bellinazzo. Invece vi faccio sentire i giocatori del Benfica, in attesa della semifinale d'andata giovedì contro la Juventus. Chissà come ci arriveranno a questa semifinale. Stanno festeggiando. Aí nessa idade de estar ao seu lado. O quê? Ei, o marinho de liberdade. Não sei mais que a gente ia pedrar. Não vou levar sem você, beleza. Que é sempre SB! SB! SB! SB! SB! Glorioso! SB! Glorioso! SB! Tutti convocati. Convocati. Ma soprattutto arriva la rossa là dietro, un lampo rosso in Cina con Ricciardo in scia. Alonso va a conquistare il primo podio stagionale per la rossa, festeggia davanti al muretto box. La cerimonia del podio, champagne, è sempre più bello, non è lo stesso quarto, quinto che terzo, quarto per esempio, quindi è stato bello rimanere davanti. Vale una mezza vittoria per Marco Mattiacci, nuovo team principal della rossa, l'abbiamo detto, non è un cambio che fa la differenza rispetto al Bahrain, è il duro lavoro degli uomini Ferrari per riuscire ad arrivare qui. No, penso che è stato un buon weekend dove mi ho trovato sicuramente comodo dal venerdì, non abbiamo cambiato praticamente il setup della macchina, tutto funzionava come volevamo, poi la qualifica è stata un po' complessa con l'acqua, ma abbiamo riuscito a tenere una buona posizione in griglia per oggi, e oggi abbiamo fatto una gara sicuramente quasi al limite, no? Non c'era più da cambiare, se rifacciamo la gara sicuramente facciamo lo stesso, non c'è più da fare, quindi questo è buono, ma tu fai la gara che devi fare, ti pagano per fare questo massimo. Riassunto sonoro del Gran Premio di Cina di domenica. Alberto Sabatini, direttore di Autosprint, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti quelli in ascolto. Primo miracolo di Mattiacci o non c'entra nulla? Sono solo suggestioni giornalistiche. No, non c'entra nulla Mattiacci. Mattiacci è arrivato venerdì in Cina direttamente dagli Stati Uniti, e direttamente all'inizio delle prove libere. Questo risultato di Alonso, questo podio, primo podio stagionale della Ferrari, è il frutto, è ancora un'eredità del lavoro di Domenicali e dello sviluppo che è stato impostato un mese fa. Nessuno ha la bacchetta magica al punto da presentarsi in pista e sovvertire gli scenari. Non a caso Alonso aveva la faccia un po' così, è stato inquadrato domenica mentre saliva sul podio. Credo che dal punto di vista umano Alonso abbia sofferto le dimissioni di Domenicali, la certificazione di un fallimento che forse in parte lo ha anche coinvolto. Tra i due c'era un rapporto particolare, c'era stato soprattutto all'inizio dell'avventura di Alonso in Ferrari. Credo sia stato anche bello che Alonso abbia deciso di telefonare a Domenicali in un certo senso per dedicargli questo podio. Sì, però svegliamo anche qualche piccolo retroscena. Non è che Alonso e Domenicali avessero un feeling così fantastico negli ultimi tempi. I problemi dell'anno scorso, il non sviluppo della macchina dell'anno scorso ha provocato una serie di discussioni e di litigi tra i due che poi il tempo ha appianato ma non ha del tutto risolto. Però Alonso comunque era, diciamo, il 50% della squadra assieme a Domenicali, hanno spartito insieme, è stato Domenicali a volere in Ferrari Alonso, perché se era per Todd non sarebbe mai arrivato, perché Todd non dimenticava lo sgarbo che gli fece Alonso tanti anni fa e quindi disse: quello finché ci sono io mai in Ferrari. Invece Domenicali poi lo ha voluto, all'inizio andavano d'accordo, le cose andavano benissimo, poi qualche difficoltà l'anno scorso, però poi le cose un pochino si erano risolte. Alonso giustamente dice lui stesso: questo podio è merito di Domenicali, ma perché semplicemente il lavoro di sviluppo della macchina che è stato fatto per la Cina era stato iniziato circa un mese fa sotto la direzione di Domenicali e ancora per un paio di mesi quello che è stato avviato è ancora l'imprimatur del vecchio. Quindi se in Spagna avremo l'atteso progresso, il pacchetto di novità e tutto, sarà ancora merito o demerito, se dovesse andar male, di Domenicali, e non ci sarà nulla della nuova Ferrari. Quella forse sta già lavorando per la prossima stagione. Ho letto di un mercato, della ricerca di un motorista, di ingegneri. Sì, Mattiacci adesso si sta guardando intorno, sta cercando di capire come funziona questo mondo della Formula 1 che lui non conosce. È un manager, lui deve valorizzare delle persone che lavorano, ma deve anche prima imparare a capire chi è bravo e chi non è bravo, e deve capire la direzione. Mattiacci farà un lavoro a medio-lungo termine, deve capire i punti deboli della Ferrari e studiare come potenziare o rinforzare questi settori deboli, uno dei quali ha già capito, l'abbiamo capito tutti, è il motore dal punto di vista dell'elettronica o soprattutto dell'elettricità, cioè i recuperi di energia, i cavalli aggiuntivi che vengono nei motori elettrici. In Ferrari mancano questi cavalli perché il sistema elettrico non funziona tanto bene e non dà quella potenza aggiuntiva di 160 cavalli che hanno gli altri. Dobbiamo aspettarci qualcosa per la Spagna per il ritorno in Europa? Assolutamente sì, perché in Spagna c'è il primo pacchetto, grosso pacchetto evoluzione, modifiche aerodinamiche importanti, a partire da un nuovo muso, a partire da migliorie un po' dappertutto nella parte aerodinamica. Teniamo presente che le prime quattro gare del mondiale, quelle che abbiamo visto, si corrono dall'altra parte del mondo, tra Australia, Malesia, Cina, Emirati Arabi, e in quel periodo le macchine sono sempre fuori, la maggior parte dei tecnici sono sempre in giro. E quelli che rimangono studiano le modifiche e gli aggiornamenti sulla base delle esperienze raccolte nelle corse e vengono costruite, ci vuole circa un mese a realizzare dei pezzi nuovi. Quindi in Spagna a metà maggio arriveranno cose iniziate a progettate a fine marzo e primi di aprile. Quindi c'è anche la possibilità che si scopra di avere ancora un mondiale, ancora una stagione, non semplicemente un monologo della Mercedes, ma qualcosa che possa essere più interessante. Anche se è l'ultimo rilancio, cioè se in Spagna non troviamo nulla di buono per la Ferrari, ma non solo, vale anche per la Red Bull, dobbiamo rassegnarci a che sia una stagione tutta Mercedes. Beh, io credo che la stagione sarà comunque tutta Mercedes, perché la Mercedes ha quasi 2 secondi di vantaggio. Il giro più veloce di Rosberg è stato 1,7 secondi più rapido di quello di Alonso, che pure sì, è un divario incolmabile, è un divario incolmabile qualunque sia lo sviluppo. Pochi mesi. Diciamo che la Ferrari cerca di giocarsi la vittoria degli altri, cioè c'è un solo posto in lizza sul podio, il terzo posto, e la Ferrari cerca di giocarsela con Red Bull, con Force India e con Williams. In questo momento, 2 settimane fa era molto indietro, è dietro a tutte queste squadre, adesso sembra che sia riuscita a metterci il naso davanti, deve consolidare questo terzo posto, primo degli altri, e cercare di avvicinarsi alla Mercedes. Però per quest'anno io non voglio essere negativo troppo presto, però sì, sarà un po' una noia, lo dico io. Per chiudere, Alberto Sabatini, Kimi Raikkonen comincia a essere un problema per la Ferrari? Kimi Raikkonen non è un problema per la Ferrari, è un problema in generale, nel senso che non ci si spiega perché Raikkonen non riesce a guidare bene questa macchina, a fare i tempi di Alonso. Lui che come pilota comunque non è da meno, se non è ugualmente veloce sarà uno o due decimi più lento, ma insomma in Cina è stato oltre un secondo più lento di Alonso e non è chiaro il motivo. Raikkonen soffre queste macchine molto complicate dove richiedono mille messe a punto diverse. Lui ha detto, l'abbiamo colto, il nostro inviato l'ha colto, dire una frase al suo ingegnere di pista in modo anche un po' frenetico: non mi devi spiegare come fare tutte le spiegazioni, mi devi dire solo sì o no. Lui vuole delle istruzioni semplici e in questo momento le macchine sono troppo complesse. Ferrari un po' troppo complicata per Raikkonen. La squadra deve semplificare per lui la gestione della macchina. Anche questo dico, forse si poteva anche scoprire prima della partenza di questa stagione, ma comunque vedremo. Grazie ad Alberto Sabatini. Grazie a voi. Grazie ad Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. Siamo in fondo. Siamo al migliore di giornata. Franco da Torino, Franco. Allora, ascolta, innanzitutto ti faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. La ritengo una delle migliori proprio, se non la migliore. Mi sembra strano sentire il tifoso della Juve che si lamenta. Io sono un milanista, penso un po' in quale situazione mi trovo. Cioè che sono 2-3 anni che stiamo penando come dei disgraziati. Allora, io mi domando e mi chiedo, io sono una di quelle persone che ha fatto abbonamento a 10 anni a questa parte a vedere le partite in casa del Milan. Ma se io mi devo trovare con un Milan del genere, faccio uno che è abituato a mangiare caviale e poi deve mangiare pasta e fagioli, io, mi abbi pazienza, io, ma come fa una persona a dire, cerchiamo di stare vicino, io, per dire alla squadra, perché cercheremo di investire, io, diciamo, il futuro del Milan con dei giovani. Abbiamo provato per due anni, non so come abbiamo fatto a fare la Champions, perché onestamente non si meritava proprio di andare. Se c'è una squadra che meritava era la Fiorentina, onestamente, buon milanista. Oggi come oggi, per dire, io onestamente non spenderei più un soldo per andare a vedere il Milan. E questo era il migliore di oggi, domani ricominciamo, migliore in campo tutti i giorni, l'intervento migliore all'800240024 che vince una maglietta speciale di tutti i convocati. E poi vi ricordo che abbiamo lanciato oggi, convocato per un giorno, il tema della settimana: la Juve che domina in Italia, ma cosa serve per vincere in Europa? Dovete mandarci un file MP3, un file audio di un minuto con su la vostra analisi, che cosa manca alla Juventus per essere competitiva anche in Europa. Sul sito www.radio24.it c'è il form dove spedire il file. Abbiamo finito, ringrazio ancora Franco Piantini, l'autore di questa puntata, Roby Scaltritti in regia, un saluto da Giovanni Capuano, domani torna Carlo Genta dalle 14.05.